in primo piano. Le 7:32 minuti, una buona giornata da Laura Bettini. Vediamo insieme nella prossima mezz'ora le prime pagine dei quotidiani e ovviamente gli approfondimenti che riusciremo a proporvi. Cominciamo subito, ovviamente le prime pagine sono tutte dedicate sui quotidiani alla questione coronavirus, la maggioranza anche delle pagine interne, ma ci sono anche altri temi, primo fra tutti quello dei migranti a Lesbo e di quanto sta accadendo in Turchia. Iniziamo e Siria. Sole 24 ore, la scelta cade per l'apertura sulla sanità, 20.000 rinforzi verso nuove misure di emergenza. Il Consiglio dei Ministri, più stringenti le regole sanitarie in Lombardia, tutte le 145 strutture lombarde dedicate all'emergenza del Covid-19. Interventi straordinari, lo Stato potrà requisire alberghi e macchinari. Ovviamente qui non ci sono, visto il tardo orario in cui ha chiuso il Consiglio dei Ministri, le ultime novità che però avete sentito nel corso dei nostri GR. L'Italia che non si ferma invece è la fotonotizia del Sole 24 Ore, nuovi progetti del gruppo FS accelera sugli investimenti 2020, il gruppo accelera con 20 miliardi di euro di gare entro la fine dell'anno per dimostrare che l'Italia non si ferma, la volontà di ripartire e di guardare al futuro con più ottimismo è espressa in alcune cifre che una grande azienda italiana, il gruppo Ferrovie dello Stato, ha indicato in una lettera inviata al governo in queste ore. La fotografia è uno dei treni delle FS ad alta velocità. Poi ci sono delle anticipazioni che arrivano dal Ministero del Lavoro con un'intervista al ministro Catalfo, dice misure da 2,5 miliardi per CIG e congedi straordinari, e questo tra pochissimo lo vedremo insieme. Ricordo anche l'articolo, la lettera, la proposta che arriva da Romano Prodi e Alberto Quadrio Curzio, perché è arrivato il tempo per gli Euro Union Bond e il dettaglio ovviamente che poi c'è nelle pagine interne. Euro Union Bond, si legge, era il titolo di due nostri articoli su Sole 24 Ore nel 2011 e nel 2012. Il connettivo Union aveva ed ha un significato profondo per chi come noi è un europeista convinto. Adesso il tema degli eurobond sta tornando di grande attualità. L'epidemia del coronavirus obbliga a riprendere in esame questa proposta come strumento indispensabile per fronteggiare le conseguenze socio-economiche di una crisi che inevitabilmente, scrivono, provocherà un rallentamento dell'economia europea e forse una recessione nella quale l'Italia già tecnicamente si trova. Come ogni settimana sul Sole 24 Ore, sabato troviamo l'approfondimento Food, economia del cibo e agroalimentare, dedicato questa volta al glifosato, ritardi in Europa che procede in ordine sparso. Grande tema di discussione, appunto, grande tema di indecisione europea. Corriere della Sera, 20.000 rinforzi negli ospedali, piano di assunzioni per medici e infermieri, pronte misure più restrittive, probabile zona rossa per altri comuni lombardi, fate attenzione al probabile. I contagiati sono 3.916, oltre 100.000 nel mondo, controlli alle frontiere austriache per gli italiani, processi a porte chiuse o rinviati a giugno e crollano le borse. Questo è il riassunto di giornata del Corriere della Sera, che al centro pagina mette nonna Paola con i suoi 6 nipoti. L'emergenza coronavirus con le scuole chiuse la costringe a rivoluzionare le sue giornate con i suoi piccoli ospiti. Appunto, racconta nonna Paola Ghisio, 78 anni, di Milano, le sue giornate con i nipotini, i genitori dei ragazzi e dei bimbi al lavoro, e i nonni sono in prima linea. Ma mi chiedo, per quanto tempo andremo avanti così? Noi abbiamo un limite di resistenza. Il governo lo sa? Si domanda appunto nonna Paola. E poi c'è Gramellini oggi che ci racconta di questa ormai diffusa abitudine, di questi volantini, di questi post-it che si trovano ormai sempre più spesso nelle città lombarde con scritto "tutto andrà bene", guarniti di fiorellini e cuoricini. "Tutto andrà bene", scrive Gramellini, così senza nessuna ragione a sostenerlo se non la ragione stessa. Mentre le strade si svuotano, l'angoscia ci riempie e i profeti di sventura scalzano gli arruffapopolo dai talk show. Mani anonime hanno cominciato a scrivere "tutto andrà bene" sopra dei post-it che appiccicano sui muri, sugli alberi, sulle serrande dei negozi, sui citofoni, aggiungo io. La gente passa, li vede, scuote un po' la testa e poi continua per la sua strada un po' più leggera. Il web moltiplica l'effetto e rimbalza il messaggio dentro i telefonini. "Tutto andrà bene" era la frase che Gregory Peck sussurrava a Ingrid Bergman in certi filmoni ingoiati durante l'infanzia. E sono le parole che mi disse la mamma lasciandomi per la prima volta davanti al portone della scuola. Niente di che, una piccola medicina dell'anima, un integratore emotivo che... per le difese immunitarie. Un placebo forse, ma in certi momenti serve anche quello. "Tutto andrà bene" si coniuga al futuro, ma agisce subito. Prosegue poi Gramellini, ma ci fermiamo qui. Il senso è sicuramente chiaro. La Repubblica, apertura tutta pagina, virus, SOS ospedali, subito 5.000 medici in più. Reparti colpiti dal contagio a Roma, Torino, Bologna. Il decreto in corsia pensionati e specializzandi, assumere 10.000 infermieri. Oggi decisione su altre zone rosse. Ipotesi estrema di Fontana, chiudere la Lombardia. Scuole si valuta stop più lungo, giù le borse. Positivo agente della scorta di Salvini e l'ex ministro dice sono pronto a fare il tampone. A proposito della chiusura della Lombardia, però torno subito al Corriere della Sera dove è intervistato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro, che a proposito di chiusura della Lombardia insomma sostanzialmente smentisce. Sì, la curva cresce, dice lui, siamo in una fase intermedia, non c'è ancora un rallentamento. È su questi dati che noi tecnici dobbiamo basarci per fare valutazioni e suggerire le misure che potrebbero essere prese per cercare di modificare la progressione dei casi. Però chiudere una regione, dice Brusaferro, non avrebbe senso. Si parla di, come sappiamo, allargamento della zona rossa, estensione, magari apertura di altre zone a codice giallo o addirittura introduzione del codice arancione per quelle in cui il rischio sta crescendo. Dicevamo di Repubblica, Repubblica ospita un intervento di Tito Boeri, l'economia da riscrivere. Per avere un'idea dello tsunami economico che si sta diffondendo nel mondo più rapidamente del virus, bisogna pensare ai paesi dell'ex blocco sovietico, scrive Boeri. Erano in molti a credere che la transizione a un'economia di mercato avrebbe dato immediatamente i frutti, riportando questi paesi su binari di crescita economica, ma in realtà appunto non fu così e ci volle un bel po' di tempo e quindi appunto è il momento di riscrivere l'economia, scrive Boeri, e quindi si dilunga poi nell'articolo molto sulle questioni ad esempio di smart working e di lavoro a distanza laddove questo è possibile, ma dice insomma è possibile in molti, moltissimi casi. La stampa, fotonotizie di apertura, misure urgenti del governo per permettere al personale sanitario di gestire l'emergenza coronavirus negli ospedali, e ci sono appunto dei medici e dei soccorritori, come siamo ormai abituati a vederli in queste fotografie, completamente bardati e coperti a protezione appunto contro il coronavirus. Medici eroi antivirus, questo è il titolo della stampa, arrivano le assunzioni. Dottori in trincea a tempo pieno, contagi in corsia, c'è il piano ospedali, verso lo stop ai processi non urgenti, i prefetti potranno requisire gli hotel. Sulla stampa oggi c'è anche un intervento, una lettera di Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea. Sappiamo i 100 giorni di Ursula, questo è il motivo, 100 giorni dall'insediamento. L'epidemia non fermerà l'Europa, è il titolo che è stato scelto dalla stampa, anche se poi sulla questione epidemia Ursula von der Leyen Non si dilunga onestamente molto, ripercorre insieme, diciamo, la sua ultima settimana e le questioni che ha affrontato in questa settimana. La Grecia e la Bulgaria, ad esempio, per rendersi conto in prima persona, scrive, delle pressioni cui sono sottoposte le nostre frontiere per testimoniare la solidarietà dell'Europa. Ma il giorno prima mi trovavo a soppesare... mi trovavo nel nostro centro di gestione delle crisi per soppesare una serie di misure attraverso le quali l'Europa può contribuire a mitigare l'impatto del coronavirus. E poi mi sono occupata di Green Deal, poi di campo dell'Europa digitale per sviluppare le nostre capacità. Insomma, un lasso di tempo breve, scrive Ursula von der Leyen, appena sufficiente per imprimere una direzione, compiere i primi grandi passi del nostro viaggio. Lungo il cammino non mancheranno gli ostacoli, saremo messi alla prova, come accaduto durante la settimana appena trascorsa, ma dobbiamo sempre ispirarci allo spirito delle nuove generazioni europee. E il vostro è il vostro tempo, scrive, il viaggio inizia adesso. Diciamo che un po' più di unità forse in questo appello all'unità non avrebbe guastato in questi giorni. Abbiamo ancora qualche minuto per vedere come apre il quotidiano nazionale Medici e infermieri, ecco i rinforzi. Ospedali allo stremo, il governo assume a termine 5.000 dottori e 10.000 operatori sanitari, ancora vittime ma sempre con patologie pregresse. Economia in tilt, crollano le borse e vola lo spread. L'approfondimento del quotidiano nazionale è però per le scuole decisamente doveroso. Scuole chiuse, ma non c'è chiarezza sull'impiego degli insegnanti e sui corsi online. Rebus esami, interrogazioni e voti. L'ipotesi di un rinvio delle lezioni fino ad aprile. Ed è un tema importante e gravissimo per chi ha figli a scuola, insomma si rende conto che ciascuna scuola sta un po' marciando secondo le proprie capacità sulla questione delle lezioni a distanza. Alcune, come scrive il quotidiano nazionale, funzionano bene e altre invece sembra siano così in serie difficoltà. A 3 giorni dalla decisione del governo di sospendere le lezioni in tutta Italia per cercare di contenere i contagi, la cartina della didattica è a macchia di leopardo, scrive Veronica Passeri su Quotidiano Nazionale. Il MIUR ha messo in campo una task force per sostenere le scuole, ma le situazioni sono molto differenziate anche per la dotazione informatica e ognuno, anche in virtù dell'autonomia dei singoli istituti, va per conto proprio. Il Ministero ha offerto con le ultime circolari una cornice, ma come spiegano fonti della maggioranza tutto è ancora in via di definizione, compresa la possibilità di recuperare nel mese di giugno le lezioni perse per l'emergenza. Secondo un calcolo di Tutto Scuola, la chiusura delle scuole in tutto il paese comporterà la perdita di oltre 23 milioni di ore di lezione. E con la didattica a distanza se ne possono salvare 2 milioni. L'ultima circolare, arrivata ieri l'altro, stabilisce chi e come dovrà lavorare a scuola. Sono obbligati alla presenza nelle scuole i dirigenti scolastici, gli assistenti amministrativi, i collaboratori scolastici, mentre i docenti non sono tenuti a prestare servizio, ma devono essere reperibili ed erogare possibilmente le modalità previste per la didattica a distanza. Ed è lì, sul possibilmente, che casca l'asino. Abbiamo la viabilità. In primo piano. E quindi riprendiamo dalle pagine del Giornale. Il documento segreto per decidere chi salvare, questo è il titolo. Direttiva sciocca ai medici, curare prima chi ha qualche speranza. Giustizia, ipotesi serrata, tribunali chiusi fino a giugno, l'esecutivo, assunzioni negli ospedali, alberghi, requisiti. E così apre il Giornale. Andiamo subito a vedere questo documento shock di cui parla. Vi leggo dalla pagina 9 quanto scrive Maria Sorbi. Il documento sarebbe della società di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva. Ha scritto per dare una guida etica ai primari che hanno da gestire un'emergenza più grande delle loro possibilità di cura e per non lasciarli soli in una decisione così delicata e sollevarli da una parte della responsabilità nelle scelte, anche perché può essere che si debba decidere nel giro di pochi minuti e chissà in che condizioni. Il criterio base su cui lavorare è privilegiare la maggior speranza di vita, questo è virgolettato, quindi sembrerebbe dal documento, che viene poi di cui alcune immagini ci sono nella pagina 9 appunto del giornale. Bisognerà quindi tenere in considerazione alcuni parametri: la gravità della malattia, la presenza di altre patologie, la compromissione di altri organi e, ahimè, l'età, che significherebbe sparigliare totalmente le carte del nostro sistema sanitario, che come nessun altro al mondo cura e opera anche i novantenni che hanno una possibilità di farcela. L'emergenza sballa ogni protocollo e costringe a una selezione, così scrive tra l'altro appunto Maria Sorbi sul giornale. La carica dei 20.000 è il titolo che ha scelto il Fatto Quotidiano. Il governo assume medici e infermieri, da oggi limiti agli spostamenti in tutta la Lombardia, così dice il Fatto Quotidiano, altri 49 morti. E l'apertura è poi tutta dedicata a questa, anche la fotonotizia ovviamente, con vari approfondimenti: macchinari per le terapie intensive, rianimazioni, il bando in ritardo. Il prof Salizzoni delle Molinette di Torino: stiamo rinviando i trapianti, dice. Al terzo punto, Germania: siamo come l'Italia, guerra delle mascherine in Europa. Le fake della Sbrollini sul contagio, la renziana e l'audio apocalisse, è il quarto punto che fa il Fatto Quotidiano sul tema coronavirus. Andiamo al Messaggero. 20.000 assunti contro il virus, decreto per arruolare medici e infermieri, ipotesi hotel requisiti in Lombardia, in arrivo altre zone rosse, processi, stop fino a giugno, ministeri verso il lavoro da casa, positivi 4.636, 523 guariti, 197 i morti. E poi nello specifico di Roma la scelta cade sul Vaticano, c'è un caso di contagio, l'abbiamo sentito anche in Vaticano, e Papa Francesco è isolato per precauzione, così ci dice il Messaggero. Che poi diciamo, in tutte queste cattive notizie anche sui posti di lavoro, ci dà una notizia buona con Carlo Ottaviano: spese e dieta, cosa mangiare senza rischiare, il titolo dell'articolo. Però poi leggiamo che tra l'altro è un boom, c'è un boom. Gli italiani hanno scoperto la spesa via web, costringendo le grandi catene ad assumere nuovo personale per la consegna a domicilio. E questo è il Messaggero. La verità: la Germania, infettati come l'Italia, il titolo a tutta pagina che viene scelto. Il giorno peggiore, crescita record di contagi e vittime, però appunto si punta sulla verità a quanto accade in Germania, perché i tedeschi, dice, si arrendono all'evidenza. Nel frattempo però hanno nascosto che il primo focolaio europeo è stato in Baviera, lasciando che fossimo noi a essere considerati gli untori. Boom di malati anche in Francia, dove pure non si è alzato subito l'allarme epidemia. E poi c'è una notizia sempre in tema coronavirus: si alzano in volo gli avvoltoi del coronavirus. Decuplicati i prezzi dei dispositivi indispensabili, le regioni taglieggiate dai gruppi internazionali, zero aiuti al paese dalla UE sulle mascherine. E infine una novità, diciamo, che troviamo sulle pagine della Verità: un bond dell'OMS potrebbe ritardare la dichiarazione della pandemia. Questo è quanto scrive Gianluca Baldini. Molti esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sanno che ormai ci sono tutti i presupposti per affermare di essere giunti a una pandemia. Si tratta, in poche parole, del momento in cui si pensa a ridurre l'impatto del virus e non più a bloccarne la diffusione. Ciò nonostante, l'OMS si ostina a non proclamare l'ingresso nel periodo pandemico, e in molti, dice Baldini, si domandano perché, e alcuni malpensanti avanzano l'ipotesi che c'entri l'emissione di un'obbligazione emessa dalla Banca Mondiale nel 2017, un cat bond, cioè bond legato alla catastrofe, obbligazioni sulle catastrofi, con lo scopo di trovare fondi per gli stati poveri che devono fronteggiare pandemie globali. E l'idea era raccogliere fondi attraverso obbligazioni il cui rendimento aumenta nel caso in cui la potenziale pandemia o più in generale un evento catastrofico non si verifichi. Ora c'è però chi valuta la possibilità, non confermata, ammette Baldini, che l'OMS non dichiari la pandemia per non far saltare i succosi rendimenti giunti all'11%. E questa è la tesi appunto presentata da dalla Verità. Il Manifesto, apertura codice rosso, quindi sul virus, ma un approfondimento in prima è riservato anche alla guerra in Siria, alla Turchia che viola il cessate il fuoco con i droni rivoluzionari e i riservisti greci cacciatori di migranti. Questo è proprio il titolo, appunto, i riservisti greci cacciatori di migranti. Andiamo ad Avvenire, la scuola che continua, lezioni online, sforzo collettivo per non perdere l'anno, il governo finanzia assunzioni di medici, nel mondo forti focolai in Francia e Germania, male le borse, per l'Italia cresce il rischio recessione. Questa è la scelta che fa Avvenire per l'apertura. La fotonotizia invece è quella di un bambino su un seggiolino in auto, perché seggiolini al via l'antiabbandono, fino a 4 anni, sanzioni a chi non li usa, multe, punti e patenti a rischio per chi viene scoperto con il bimbo in auto sprovvisto di dispositivo antiabbandono. Fa bene Avvenire a ricordarlo in questo periodo in cui l'attenzione appunto è sempre rivolta al virus, ma esistono anche altre questioni. Grecia, Turchia, si spara nella guerra dei migranti, sempre dalla prima di Avvenire. Migliaia di civili restano in trappola e battaglia anche sulle cifre. Ankara parla di 142.000 persone alla frontiera, per Atene sono 38.840, tutte respinte. E non certo con le buone, come sappiamo dai cronisti, dai testimoni sul posto. Andiamo a Libero, mezzo mondo preda del virus, esplodono i casi in Germania. 670 in Germania, Francia 613, l'esecutivo tedesco, siamo pieni di focolai, le infezioni non vengono da fuori. Trump destina 8,3 miliardi per l'emergenza. L'UE dorme, dice Libero, nuove indicazioni per la terapia intensiva, precedenza ai guaribili, e quindi riprende il tema di cui abbiamo parlato con il giornale. E poi al centro pagina una fotografia di medici e infermieri con mascherine, ovviamente tutti bardati, i nuovi eroi sono medici e infermieri, si sacrificano, rischiano la pelle, nessuno li ringrazia. Non propriamente vero, forse bisognerebbe ringraziarli, forse anche, ci auguriamo, economicamente, sicuramente per il lavoro svolto vengono ringraziati. Il Secolo XIX, in conclusione, sanità via 20.000 assunzioni, Toti, il virus continua a crescere, quindi uno sguardo all'Italia, uno sguardo alla Liguria. In Liguria nuovi casi, una vittima a Sanremo, la regione vara il piano dei posti letto per i contagiati, le misure del governo, verso lo stop dei ricoveri non urgenti, i prefetti potranno requisire gli alberghi. E poi c'è una fotografia di ragazze della Deledda International School, immagino a Genova, impegnate in una lezione online di inglese per i bambini della zona rossa di Vo Euganeo, quindi solidarietà tra istituti. Ci fermiamo qui con questa rassegna stampa, ci ritroviamo con Si può fare alle 8.30, ora c'è GR24.